already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. But now a special message from Senator John McCain and Governor Sarah Palin. Allora, questo era sabato sera, è Saturday Night Live, un vero McCain, una finta Sarah Palin. Hello Americans, I'm John McCain. And you know, I'm just Sarah Palin. Io sono John McCain, io sono soltanto Sarah Palin. This past Wednesday, Barack Obama purchased airtime on three major networks. We, however, can only afford QVC. McCain dice che Barack Obama, che è ricchissimo, si è potuto comprare mezz'ora su tre canali nazionali. Loro che sono poveri sono solo potuti andare su questo canale di televendite. To give you some final remarks on our campaign. And as part of our agreement with the QVC folks, we're going to try and sell you some stuff. E adesso di conseguenza cercheremo di vendervi qualcosa. Historic campaign. So why not remember it with our line of collectible products? Perché non ricordare questa meravigliosa campagna con la nostra linea di prodotti da collezione, dice il vero John. Senator Obama and myself. They are blank. Questi sono i 10 piatti commemorativi della serie di dibattiti che si sarebbero dovuti tenere nei municipi di meravigliosi paesini degli Stati Uniti, ma non si sono tenuti. Di conseguenza i piatti sono vuoti e il pubblico ride a crepapelle, perché John McCain è particolarmente brillante quando fa il brillante, tanto è vero che il giorno dopo in tanti si sono interrogati sul perché non fosse stato più brillante durante la sua campagna elettorale, avesse lasciato da parte quasi del tutto il suo umorismo, di cui si è dimostrato capace invece nello show del sabato sera, che comunque va sempre iscritto alla grande categoria del che cosa bisogna fare per campare. Ma ormai le ore per fare cose di questo genere sono veramente agli sgoccioli. I due candidati corrono come pazzi da un angolo all'altro del paese. Più tardi proveremo addirittura a capire dove sono, ma non sarà facile, vedremo di trovarli, ma sicuramente non faremo in tempo. Invece una persona l'abbiamo già trovata ed è utile, anzi indispensabile in queste ore, ed è Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, che salutiamo, ma al quale voglio chiedere per cominciare. Mario, qui ci sono degli entusiasmi che definirei quasi smodati, no, per la mobilitazione degli americani in occasione di questa elezione 2008, e i giovani, gli anziani, tutti quelli che si erano dimenticati che cosa fosse l'abolizione, tutto questo grande coinvolgimento. E si parla di cifre intorno al 63-64%, come, e questi numeri vengono detti con un certo timore, un certo tremore nella voce. Ma io vorrei chiedere a te, ma quell'americano abbondante su tre che non va a votare, ma come fa a non andare a votare in una situazione di questo genere? E soprattutto, chi è? Mario? Beh, è l'americano delle campagne, è l'americano delle città, è l'americano delle inner cities, dei quartieri poveri e poverissimi, che non sa nulla. Ti dirò che sono stato proprio ieri in Pennsylvania in giro a fare canvassing, mobilitazione del voto con i volontari di Barack Obama, per capire dal di dentro come funziona la macchina, questa straordinaria macchina di guerra che hanno messo insieme i democratici. E mi ha colpito, girando per le strade di questo paesino che si chiama West Chester, 20.000 abitanti in Chester County, un paesino a maggioranza repubblicana, a differenza delle altre contee vicine a Filadelfia che sono invece più democratiche. Mi riferisco ad esempio alla contea del Delaware, alla contea del Bauer, e sono delle contee più facilmente così identificabili con Obama. Ebbene, in questa contea più difficile, in questo paesino, andando per strada ti accorgi che c'è una quantità di gente che, non dico che non sappia che domani ci sono le elezioni, ma che è comunque disinteressata, informata. Sono persone davvero lower class, della classe bassa, della classe più povera della popolazione americana, sono gli immigrati che non parlano neanche l'inglese, ne ho incontrati a dozzine, non parlano l'inglese, sono imbarazzati, sono impauriti, eppure per circostanze di ogni genere hanno già la cittadinanza americana, certo, e hanno, sì, già il diritto del voto, un diritto di voto che molto probabilmente, nonostante questo passaggio porta a porta, alla fine non eserciteranno. Ma tu stai descrivendo un'America sommersa, di cui certamente da queste parti, dalle nostre parti, si sente parlare pochissimo, ma che sicuramente invece è parte in causa, no? Anche di questa elezione e di alcune prospettive che sono descritte all'interno dei programmi di questa elezione, dello stesso appello al cambiamento, cioè un'America veramente sotto il livello di galleggiamento. Sì, un'America sotto il livello di galleggiamento, con però una osservazione importante, che quest'anno il voto afroamericano, il voto nero, che è quello che è più disincantato, rinunciatario, che davvero non va a votare e per il quale alla fine diciamo l'establishment di Washington non ha mai reso obbligatorio il voto, ricordiamolo, in America non è obbligatorio andare a votare, è un diritto del cittadino e il cittadino può esercitarlo o meno. Il timore è che, mobilitando una serie di classi sociali che non votano, il rischio è di destabilizzazione sia per l'uno che per l'altro partito. Quindi così sono un po' d'accordo nel dire: ma restiamo senza obbligo del voto. Ebbene, chi non ha mai davvero approfittato fino in fondo del voto come diritto è proprio la classe degli afroamericani, una classe demografica che direi è la più difficile, così piena di storie, di contraddizioni con la storia del paese. Ecco, gli afroamericani si sono mobilitati. Senti Mario, i giornali e i siti americani di informazione oggi sono pieni di queste storie, e appunto relative invece all'afflusso, alla folla, alla pressione, alla voglia della gente di andare a votare, e qua e là si leggono piuttosto chiaramente i segni anche di una certa preoccupazione organizzativa, che le file siano lunghissime, che gli anziani girino i tacchi e tornino a casa, che forse non si faccia in tempo a votare tutti. Ecco, cogli anche da quelle parti preoccupazioni di questo genere? La macchina elettorale è pronta all'impatto? Ecco, non lo sappiamo, e naturalmente uno degli elementi di grande incertezza, la sensazione è che non lo sia. Uh-huh. L'idea, al di là delle percentuali che naturalmente aumentano su base storica, tu hai parlato di un 60-65%, sarebbe una cifra straordinaria per, certo, l'America, ma in termini assoluti stiamo parlando di 135 milioni di americani che domani dovrebbero andare alle urne, o meglio, se vogliamo proprio essere precisi, un po' meno, perché un 30%, circa 40 milioni di persone avrebbero già votato, e questo tra l'altro ha creato un po' di sensazione, perché David Axelrod, il capo della campagna Obama, ha rivendicato una vittoria già della maggioranza di questo voto preliminare, e sono voti, ha detto, che abbiamo già in banca, e quindi cercava di puntare sull'ottimismo. Ma hai ragione, comunque, anche se saranno 190 milioni di americani che nello stesso giorno vanno a votare, la situazione sarà difficile, e non solo nelle zone rurali, ma anche a New York. Il sindaco Michael Bloomberg ha espresso preoccupazione, ha invitato la gente ad andare a votare presto al mattino, a cercare di organizzarsi per stare anche in code molto lunghe, e l'idea è che possono esserci delle code addirittura di ore per aspettare. Quindi è un po' un fatto nuovo, e questo lo vedremo soltanto domani sul campo, nelle circoscrizioni elettorali. Bene Mario, non ti rubo altro tempo, però voglio dirti che colgo anche nella tua voce una certa ansia, probabilmente stando lì, stando vicini sul posto, la sensazione di essere davanti a un passo decisivo si sente ancora più forte. Quali sono proprio le tue ultimissime sensazioni, l'ultima ora di cose? Deve ancora succedere qualcosa? Ormai è tutto scritto, insomma, questa incertezza e anche questa superstizione che galleggia nell'aria è destinata a durare almeno altre 36 ore o qualcosa del genere? È così? Ma guarda, nulla è scritto, nulla è scritto, nel senso che ovviamente le elezioni di per sé sono incerte, non sappiamo come andrà a finire, sappiamo che Obama è in forte vantaggio, Non sappiamo cosa succederà dopo, per quanto si possa immaginare, supponiamo che vinca Obama, e quindi questa famosa pagina storica che gli Stati Uniti scriveranno, ecco, non possiamo mai sapere quali saranno davvero le emozioni che ci saranno il giorno dopo, nell'un caso e nell'altro. Oggi comunque già, devo dirti, le emozioni sono fortissime, non post'altro perché sono 20 mesi, 24 mesi che questa campagna elettorale è andata avanti, direi la madre di tutte le campagne elettorali sotto ogni punto di vista. E concedimelo, l'emozione è forte. Senti, sarà Obama sarà a Chicago, me lo confermi per l'elezione? Obama è a Chicago, io sto per andare appunto a Chicago fra poco e sarò lì a seguire quella parte della campagna. Il nostro giornale ha inviati un po' dappertutto in America per cercare di coprire così dalle campagne, dal sud, dalla California, dall'Arizona dove ci sarà McCain, questa straordinaria giornata che ci aspettiamo per domani. Grazie Mario, ci risentiamo naturalmente domani, a proposito di Chicago, ecco. Arrivano anche i vostri messaggi, naturalmente di tenore elettorale, anche c'è chi si lascia andare a un pronostico, sono graditi e ne daremo naturalmente conto perché sono divertenti, soprattutto quando sono motivati, estremamente motivati, come quello di Simo che ci dice: siamo in tempo per i pronostici, Obama vincerà di misura, grosso peso dei piccoli partiti con Georgia decisiva, lo stato di Bob Barr, ricorda, candidato dei libertari, che darà filo da torcere a McCain, ci sarà una rivoluzione post voto nel partito repubblicano, è ora di tornare al vecchio conservatorismo fiscale e isolazionismo a gogo, la Palin è il nuovo Reagan, la state sottovalutando alla grande, la stiamo sottovalutando alla grande, adesso ti facciamo vedere come la sottovalutiamo. Poi però prima qualche altro messaggio, questo è geniale, Cesare che dice: se per caso domani si creerà un buco di qualche secondo nella trasmissione, mi permette di suggerire, mancano 45 giorni al mio 35esimo compleanno, vuole il suo conto alla rovescia personale, Cesare, ma un genio assoluto. 18 gennaio, che peraltro poi quasi coincide con la salita al Campidoglio di Barack Obama, e ne terremo certamente conto. Michele sottolinea che i Knicks hanno fatto schifo, non che sia proprio attinente, ha visto la partita stanotte in televisione, l'abbiamo fatto anche noi, caro Michele, e confermiamo, i Knicks non solo hanno fatto schifo, ma i Knicks fanno schifo, ci dobbiamo adattare a questa triste realtà e convivere con essa. Un ascoltatore ci dice che cosa dice la sigla. Caro ascoltatore, sono anni che almeno in parte della sigla stessa ce lo chiediamo anche noi. 349-238-6666, accogliamo con gioia i vostri pronostici, e adesso passiamo a darvi alcune ultimissime di carattere sempre elettorale. Ah no, prima la Sara Palin promessa, ecco. Available now, we got a bunch of these. È una finta Sara Palin, eh? Abbiamo solo questa adesso. Just try and wait until after Tuesday to wear them, okay? Sta vendendo in un noto show televisivo già citato oggi magliette con scritto Palin 2012, come vuole appunto il nostro amico Simo, ma dice: ma io per correttezza aspetto a indossarla mercoledì. Either way. What's going on over there, Sarah? Oh, just talking about Texas. E poi arriva nonno McCain, dice: che stai facendo lì, Sara? Mentre vendeva le magliette Palin 2012. No, mi stavo solo dicendo le cose attorno alle tasse. In realtà aveva appena detto che tanto se andava male con le elezioni un posto in TV come Oprah Winfrey bianca non glielo avrebbe tolto nessuno, e a voglia se ha ragione, Dunque, io esito a dire quello che sto dicendo, anche conoscendo appunto l'età del candidato repubblicano John McCain, ma oggi McCain parlerà in 7 stati. Non so se avete idea quanto sono grossi gli stati e cosa vuol dire parlare in 7 stati, cioè arrivare con l'aereo, scendere la carovana delle macchine, l'arrivo al comizio, salutare i notabili e locali, aspettare che parla Sara Palin, che sta sempre lì, insomma, nei dintorni, oppure tua moglie, oppure l'amico Joe Lieberman che non lo molla più, o peggio ancora il temibilissimo Joe l'idraulico. Sono tutte queste cose qua, tutto questo fatto in 7 stati d'America in una giornata. Questa è la il cattivo lunedì, se me lo passate, il lunedì faticoso di John McCain, che parlerà in Florida, Tennessee, Pennsylvania, Indiana, New Mexico, Nevada e poi Arizona, che tra parentesi è casa sua, quindi supponiamo che parlerà già in pigiama. No, la questione è seria. Guardate che questo lancio che faranno domani notte, e che noi attendiamo con ansia tecnologica su CNN, della intervista per ologramma, ovvero altro che Spielberg, cioè in studio credo che appariranno ologrammi, che ne so, di Barack Obama, di Sarah Palin, di Bill Clinton, pure di qualche morto, magari Abramo Lincoln, e verranno intervistati dai giornalisti. Secondo me vi potete immaginare quanto no semplificherebbero la vita a un candidato di 72 anni anziché parlare in 7 stati. Mando l'ologramma. Il democratico Barack Obama, sicuro di sé e dei suoi numeri, invece si limiterà a lanciare una offensiva in 3 stati che votarono repubblicano nel 2004, nella fattispecie Florida, North Carolina e Virginia, quindi immaginiamo che riuscirà a trovare il tempo anche di farsi una partitella di basket. I sondaggi sono piuttosto compatti e somigliano a tutti quelli degli ultimi giorni, ovvero non somigliano a niente perché oscillano paurosamente, però insomma si va sempre per un solido vantaggio di Barack Obama, che varia tra i 15 e gli 11 punti percentuali. Gli stati chiave li conoscete perché ve li ripetiamo instancabilmente, sono sempre quelli, cioè Virginia, Florida, Pennsylvania, Ohio. Come disse qualche giorno fa David Brooks, c'è la sensazione tra i pessimisti repubblicani che quando saranno le 9 di sera ora americana, ovvero non appena usciranno gli exit poll solo della costa orientale, già sarà ora di andare a dormire, perché già si saprà chi è il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, ma si sa poi che alla fine le elezioni americane sono sempre più ristrette e ravvicinate di quanto si possa credere, e anche questa volta, nonostante ci sia un forte partito di sostenitori della valanga Obama, potrebbe anche non essere affatto così. Ci sono altri pronostici, magari li leggiamo più tardi, e abbiamo anche tutta una serie di notizie relative a quello che sta succedendo in questo momento, che, come testimoniava secondo me proprio con il tono, il timbro della sua voce, Mario Platero pochi istanti fa, è sinceramente di profonda, quasi storica, epocale emozione in tutta America. I won't stand here, Ohio, and pretend that any of this will be easy, especially not now. The cost of this economic crisis, the cost of the war, means that Washington will be tightening its belt, just like families are having to tighten their belts. E questo è Barack Obama, comizio di ieri nell'Ohio, dove gli argomenti devono essere estremamente fattuali, estremamente fattivi. Sta parlando di stringere la cintura, un argomento che deve trattare con chiarezza ma anche con delicatezza, perché sapete bene che da qualche giorno è diventato il candidato socialista, almeno per quello che riguarda la propaganda dei suoi avversari. Deve riuscire a sfatare questo credito che gli è stato dato, al tempo stesso cominciando a dare la sensazione di essere un presidente operativo, perché, come ha scritto Time Magazine, più tardi ve le leggo, ci sono almeno 5 cose che un presidente appena insediato dovrà fare. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. I think it's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Le elezioni presidenziali americane 2008. Obiettivo 4 novembre. Yes we can. Come on. Yes we can. La chitarra di Bruce Springsteen, registrate un paio di sere fa a Cleveland, Ohio, nel cuore dello stato operaio, dell'America operaia, comizio di Barack Obama. Bruce Springsteen che è risceso nuovamente in campo per fare campagna elettorale. La volta scorsa fu un disastro, alcuni di voi se lo ricordano, sostenne apertamente John Kerry, ci fu chi disse, chi arrivò apertamente a ipotizzare che faceva meglio a stare a casa perché innervosì con alcune dichiarazioni forse un po' così, un po' guascone, una certa parte del pubblico lo ha rifatto per Barack Obama, che ha comunque un pubblico più giovane, più incline, più sicuramente vicino alle truppe, no? Sterminate truppe springsteeniane, è sceso in campo e ha cantato a un comizio di Barack Obama questa versione, di cui facciamo ascoltare adesso un piccolo estratto, di Questa terra è la tua terra, l'inno 1940, Woody Guthrie, no? La risposta progressista al God Bless America scritto da Irving Berlin. Ascoltiamo un momento il boss in versione elettorale. Diamond deserts, and all around me a voice was sounding. It said this land was me, breathing me. This land is your land, this land is my land, from California to New York terra è la tua terra, questa terra è la mia terra, dalla California alla isola di New York, dalla foresta di Redwood al Golfo del Messico, questa terra è stata fatta per te e me. È stato il modo di scendere in campo, no? Con la sua retorica, la sua grandiosità, anche il suo impatto di Bruce Springsteen. Dunque, abbiamo un messaggio molto interessante per il quale abbiamo una risposta pronta. Ci piace quando ci riusciamo a farci trovare attrezzati, anche perché la domanda è un po' lì che aleggia nell'aria, e ce la propone Pino, che ci chiede, come secondo me si chiedono molti tra coloro che seguono queste elezioni americane, dove diavolo è finito il vice di Obama. Cioè, qui si parla moltissimo di John McCain, Sarah Palin, nel bene o nel male, notizia la fa sempre. Barack Obama ormai è una icona che cammina a 3 metri, no? Sotto, sopra il cielo, sotto il cielo, insomma, altissimo. E Joe Biden? E Joe Biden? Joe Biden? Non abbiamo notizie mai di Joe Biden, però siccome siamo gente che si documenta, abbiamo scoperto che un pazzo che si chiama Greg Reese, unico in America, mi risulta anche unico nel mondo, ha dedicato un rap a Joe Biden. Voi direte, ma è matto, insomma, chi può venire in mente di dedicare un rap a Joe Biden? Ma visto che siamo in aria di vigilia, ce ne voglio anche un po' di scherzare, di sdrammatizzare un po', ve lo facciamo sentire pochissimo, perché l'avvertimento è davvero bruttissimo. What we gonna do right here is go back, way back, back into time. Old school hip hop. So when I say Joe, you say Biden. Joe, Biden. Joe, Biden. When I say Joe, you say Biden. Joe, Biden. Joe, Biden. Joe Biden. He's a man who takes a stand for the family with a plan. This is a man who can it be? He's the one to get it done. Joe Biden. Joe Biden. E fossimo cattivi potremmo proseguire, perché questa è una cantante cinese, no? Che poi qui sapete sono di casa, insomma, in questo programma, che appare misteriosamente, anche un po' inspiegabilmente a un certo punto, e comincia a cantarsela per i fatti suoi, senza dar retta al grosso rapper invece, che fa domande tipo: se io dico Joe, voi cosa rispondete? Naturalmente Biden. È peccato che non abbiamo tempo di parlarvi delle bambolette chiamate Joe, che erano in un altro programma televisivo. Leggo qualche messaggio. Dunque, dai, fra il boss e Moore non so chi sia più gatto nero, scrive Claudia. Beh, insomma, c'è della verità in tutto ciò. Sono personaggi temutissimi. Mi ricordo il racconto che David Brooks mi ha fatto, del New York Times, mi ha fatto di quando, della vicenda David Moore, legata, quando decise di legare le proprie sorti a quelle del Partito Democratico e di John Kerry, le mani nei capelli e sugli occhi degli executive democratici. Io credo che McCain non sia spacciato, scrive ancora Claudia, poi ancora già saremo regolarmente in onda mercoledì, saremo anche in onda in una edizione speciale domani sera, sappiatelo, dalle 10 a mezzanotte all'interno della notte più giornata speciale che Radio 24 dedica alle elezioni, con contributi tanti, numerosi, e da ogni luogo ci sarà anche una grande porzione di due ore di Jefferson Ming domani sera dalle 22 alle 24. Molto spiritoso Fabrizio di Venezia, che scrive: per carità che Berlusconi non venga a sapere questa cosa dell'ologramma, di cui ancora non sappiamo niente, ma l'abbiamo letto, ce l'hanno detto, abbiamo visto gli spot che faranno le interviste, le prime interviste con l'ologramma a CNN, domani sera le vedremo. Fabrizio ipotizza che quando il primo ministro italiano lo saprà, ce lo troveremmo anche nelle aiuole delle rotatorie. Ipotesi interessante. Si chiede Francesco perché il Partito Democratico, che in Italia ha molti problemi, stia mandando così tanti dirigenti a fare campagna elettorale negli Stati Uniti a favore del senatore afroamericano. Non possiamo rispondere per insegnare a vincere, insomma, ma forse per imparare, magari per imparare la mobilitazione, no? Grassroots, questi famosi 8 milioni di persone, che uno che non, di solito non spara così stupidaggini come David Axelrod dichiara, e Platero ne parlava anche poco fa, di essere pronto a mettere per strada domani 8 milioni di volontari nati dal nulla, perché qui non si parla di Partito Democratico, qui non si parla proprio di partito, anzi qui si parla di un movimento a tutti gli effetti, un movimento che si è aggregato, che è nato, cresciuto ed è diventato gigantesco attorno alla figura di Barack Obama. Ma ascoltiamo un'altra cosa, questa colta per strada. As voters we need to be informed so that we can vote intelligently. Amen. Amen. Bisogna votare intelligentemente. Qui siamo in una chiesa di Harlem. Il reverendo di colore afroamericano sta tenendo la sua funzione ieri, domenica, e sta dicendo ai suoi fedeli di votare intelligentemente, ma forse lì il dubbio sulla scelta è piuttosto pleonastico, ma soprattutto di votare. È un altro segnale, no, di quella grande mobilitazione, i cui confini sono ancora tutti da scoprire, perché insomma bisogna vedere veramente quanti ne andranno e se, come dicevamo con Mario, se la macchina reggerà. Infine voglio darvi ancora un paio di notizie attorno al grande dimenticato. C'è un grande dimenticato, e si chiama George W. Bush. Nessuno ne parla più, molti già non si ricordano chi sia costui, ma bene o male era il presidente detto Bush 43, insomma il 43esimo presidente degli Stati Uniti, per 8 anni alla Casa Bianca, con una agenda desertica in queste ore. Infatti si viene a scoprire, approfondendo, che ha trascorso il fine settimana a Camp David, nella residenza presidenziale del Maryland. Non ha appuntamenti in programma, appuntamenti pubblici, né per lunedì né per martedì. Come sapete è stato tenuto ben lontano dalla campagna elettorale, anzi John McCain quando rivendicava il diritto di chiamare quello là, no, l'avversario Barack Obama, ha detto: tanto lui a me mi chiama George W. Bush, quindi anch'io ho il mio nomignolo, per dire che questo ormai è un nomignolo davvero screditato. Nessuna apparizione, niente giornalisti, ha già votato peraltro, quindi non andrà al seggio, non ci sarà il voto con scatto fotografico. Ha votato per McCain. Una settimana fa il suo staff ha provveduto a spedire la scheda per posta in Texas. La sera delle elezioni Bush sarà alla Casa Bianca a seguire i risultati del voto, poi si concederà una serata con famiglia e amici per festeggiare il 62esimo compleanno della First Lady Laura, e auguri anche da parte nostra. Poi comincerà l'handover, no? Il passaggio di consegne, una procedura complicata, interessante, che seguiremo e cercheremo anche di raccontare, perché diventa una fase a sua volta critica in una situazione generalmente critica, in vista di quel 20 gennaio 2009, quando il nuovo presidente degli Stati Uniti si insedierà alla Casa Bianca. Claudia, una spiegazione su dove sia finito Joe Biden. Lo hanno tenuto lontano dalla ressa, ma ha girato l'America a suon di gaffe, come sempre. Sì, effettivamente ne ha mandata qualcuna in circolo nell'aereo e chi è stato attento l'ha intercettata. Poi un gentile ascoltatore osserva che il Biden rap che abbiamo ascoltato poco fa fosse peggio di I Am PD. Sì, siamo secondo me più o meno sullo stesso piano qualitativo. Ci sono momenti in cui il pop diventa un inferno, diciamocelo francamente tra di noi. E volete sapere come seguiremo l'America nel programma dopo le elezioni? Beh, seguendo esattamente quello che succede dopo le elezioni, che non è un momento forse meno interessante di un momento elettorale, un cambio di regime, se mi passate questa espressione, o la continuazione con tutti gli appositi necessari adattamenti di una tenitura repubblicana alla Casa Bianca. Che vada in un modo o nell'altro, gli scenari saranno perlomeno profondi e certamente da esplorare. E oggi non c'è Emiliano a parlarvi di melamina, Dunque, invece, comunque, ci occupiamo come di rigore di Cina anche nella puntata di oggi, e lo facciamo con la seconda puntata, dopo quella di venerdì, dedicata a un fotografo blogger, nonché amico del nostro programma, si chiama Gabriele Battaglia, è un appassionato di Cina, un viaggiatore che poi sa restituire naturalmente con i suoi scatti, che tra l'altro potete vedere sul suo sito www.chenying.net, dove si trovano le foto che ha scattato anche durante questo ultimo viaggio nello Xinjiang. Lo Xinjiang è la più grande provincia della Cina, ha una maggioranza uigura e tra l'altro musulmana. Venerdì ci ha parlato dei paesaggi dello Xinjiang, delle caratteristiche somatiche degli abitanti, che sembrano più europei che un cinese di Pechino. Ora, nella clip che ascoltiamo ora, ci racconta una serie di incontri e di aneddoti particolarmente significativi di questo suo viaggio. Mi è successo, per esempio, stavo camminando per la città vecchia di Kashgar e un venditore di angurie mi ha visto, ma ha invitato in casa sua sostanzialmente. Ho entrato in casa sua e mi ha fatto vedere tutti gli album di famiglia, foto non solo dei suoi numerosi figli, ma anche dei suoi cavalli, eccetera. Si rammaricava di non averli più. E dopo avermi chiesto la mia situazione familiare ed essere rimasto molto perplesso per il fatto che non ero ancora sposato, non avevo figli, ha cominciato, insomma, anche lui a volermi fotografare con il telefonino. Ma siccome per lui, insomma, io non ero solo io, ero anche la mia famiglia, la mia rete relazionale, ha voluto fotografare con il telefonino la foto della mia ragazza, sostanzialmente, che avevo sul display della macchina fotografica. Cioè lui ha fatto la foto della foto con il telefonino. Cioè, questo per dire il particolare calore e attenzione che hanno nei tuoi confronti. Un altro esempio, secondo me, un'altra situazione molto bella, interessante, che ho vissuto è stata quella di prendere un treno, e io sono salito un po' circospetto su questo treno, mi attendevano 11 ore di viaggio e sono di colpo diventato una sorta di attrazione del vagone, probabilmente perché il lungo viaggio noioso richiedeva qualche tipo di attrazione anche per i viaggiatori. Sia Han, sia Uiguri, sia di altre minoranze etniche che popolavano quel treno, a turno mi hanno fatto sedere con loro, anche lì solito, insomma, mi hanno chiesto tutto della mia famiglia, di quello che faccio, eccetera eccetera, incuriosito il fatto che una persona un occidentale magari vada in giro da solo così, e mi hanno scritto, non so, anche delle cose molto belle sui miei taccuini di viaggio, benvenuti in uiguro, sia con caratteri arabi che con caratteri occidentali. Benvenuti. Io poi voglio vedere questi taccuini, bisogna chiederlo a Gabriele. Comunque, di fatto, insomma, la dimostrazione che poi, no, il viaggiatore soggetto può facilmente trasformarsi in viaggiatore oggetto ed essere così soppesato, toccato. A me, per esempio, capitò una volta nell'altopiano della Chiapas, quando omini alti un metro e venti, un metro e trenta, indio alti 1,20 m, 1,30 m, mi caricavano, mi davano gentilmente passaggi sui loro camioncini con i quali tornavano indietro dai lavori stradali, e poi ridevano tutto il viaggio guardandomi, dicendo: ma chi è quel mostro ridicolo, una specie di scimmione. Si chiama diversità e fa un po' da contraltare, no, alla globalizzazione, globalismo, e rende ancora utili e necessari, per esempio, viaggi, esplorazioni come quelli che fa Battaglia con la sua macchina fotografica. E ora il nostro fotografo risponde a un'altra curiosità che sicuramente vi sarà venuta: con come ci si parla, no? Con che lingua, o meglio, quali lingue si parlano nello Xinjiang? Sono calcolate 13 minoranze etniche lì. La lingua predominante sono due, sono sostanzialmente l'uiguro, che è un dialetto di origine turca sostanzialmente, e ma con molte contaminazioni da altre lingue, no? E il cinese mandarino, il putonghua. Queste sono le due lingue, insomma, è tutto bilingue, i cartelli sono tutti bilingue nelle due lingue. E un dato interessante che ho scoperto è che l'uiguro si scrive con i caratteri arabi, i vecchi scrivono in caratteri arabi, no? E i giovani anche loro scrivono con i caratteri arabi. C'è stata una generazione di mezzo, che immagino, insomma, sono quelli sulla cinquantina, i 40, anzi forse un po' meno, 40-50 anni, che per una delle consuete vicissitudini, diciamo, politiche cinesi, della storia cinese dal dopoguerra in poi, insomma dalla fondazione della Repubblica Popolare in poi, sono stati disincentivati a scrivere in arabo e sono stati invece incentivati a scrivere con caratteri occidentali in uiguro. Gabriele, diciamo che sono i figli della rivoluzione culturale. I figli della rivoluzione culturale. E quindi abbiamo una generazione di mezzo che scrive in uiguro con caratteri occidentali, non riuscendo magari a leggere e comunicare con quelli arabi, cosa che invece riescono a fare le due generazioni attorno, quelli che sono venuti prima e quelli che sono venuti dopo. Appena arrivato, il candidato John McCain ribadisce il suo ottimismo in vista del voto presidenziale di martedì. Io so riconoscere l'entusiasmo della gente quando la vedo, ha detto McCain. Io lo sento che il vento è girato dalla nostra parte. E tutto questo durante un comizio a Scranton, in Pennsylvania. E ha concluso dicendo: vinceremo le elezioni. E poi comunque, Barack o John, c'è sempre a salvarci Charlie Brown. Sappiate, se vi piacevano o vi piacciono ancora, che Charlie Brown è approdato su internet, ci fa piacere dirlo, non sappiamo esattamente perché, poi cercheremo di capirlo, ma partendo dal sito di iTunes sono disponibili 20 episodi, alcuni dei quali scaricabili per un tempo limitato gratuitamente. Stiamo parlando di animazione, quindi il Charlie Brown cinematografico, tratti da disegni del 1964, e sono certo che alcuni di voi già batterà il cuoricino. E allora, questo è Jefferson Ming. Mi raccomando, ricordatevi, domani doppio appuntamento, ci sentiamo alle 4, ma poi ci sentiamo anche la sera dalle 10 a mezzanotte. Io sono Stefano Pistorini, in redazione oggi Gloria Guerrera e naturalmente Emiliano Enrico, in regia a Roma Paolo Corleoni e a Milano Fabio Cantadori. Il sito è jeffersonming.it, tutti gli altri modi per conoscerlo già lì, per contattarci già li conoscete. E la replica del programma stasera alle 9, la diretta come sempre alle 4, ci risentiamo qui su Radio 24. Clicca linear.it ed entra nella tribù. Linear, assicurazioni in linea con te. Vi ha presentato Jefferson Ming e l'arte del sorpasso.